passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18:37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, andiamo subito a sentire il riassunto del TG2. Stop alla pillola abortiva dalla Commissione Sanità del Senato, necessario il parere preventivo del governo, il sottosegretario Roccella assicura, arriverà entro 24 ore. Tensione a Roma fra operai sardi dell'Alcoa e forze dell'ordine. Al Ministero dello Sviluppo Economico accordo poco fa, ritirata la procedura di cassa integrazione. Svolta nel giallo della donna uccisa e mutilata in provincia di Varese, le mani tagliate e quasi decapitata, fermato un pregiudicato movente forse economico. Si abbasseranno in Italia i costi degli sms, da gennaio non più di 13,2 centesimi l'uno. Gli operatori rispondono all'invito dell'autorità per le telecomunicazioni. E sentiamo anche i titoli di Studio Aperto. L'annuncio nel pomeriggio, svolta nel giallo delle mani mozzate di Varese. Sarebbe stato fermato l'assassino della signora Carla. Si tratterebbe di un artigiano della zona. A dirlo, le impronte delle scarpe, le ultime in diretta. Ascoli Piceno, stuprano una sedicenne. Dopo un mese sono già fuori dal carcere. La madre della vittima aveva ascoltato tutto al telefonino, ma ora il padre di uno degli accusati ci dice è stata solo una ragazzata. Crolla il colosso finanziario dei nababbi del Dubai e le borse di tutto il mondo vanno a picco. Io la sera mi addormento e qualche volta sogno perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi. Aiutatemi voi che ascoltate, fatemi capire perché me la devo prendere ancora una volta con Fiorella Mannoia. Non vorrei, perché queste canzoni, quelle che state ascoltando, in fondo mi piacciono, devo dire la verità, mi piacciono. Dunque non farei mai come Fred Vargas, quella che appoggia Battisti, e ho rinunciato a leggerla, a comprare i gialli che mi appassionavano. Non lo farei mai, continuerò ad ascoltare queste meravigliose canzoni, però vi faccio ascoltare ancora una cosa e mi domando perché, quale ragionamento può portare a considerazioni di questo tipo, quali intrighi mentali. Fiorella Mannoia, che da un po' di tempo si è messa a fare la pass da run contro Berlusconi, e che va benissimo, per carità, però seguite il filo di questo ragionamento che riguarda le donne e va a parare sempre lì, agli ultimi fatti, a Berlusconi e le veline, a Berlusconi e le escort, la dignità delle donne. C'è un momento, ed è questo momento in cui viviamo, dice Fiorella Mannoia, in cui l'immagine femminile è un'immagine terrificante. Siamo in un momento in cui l'immagine femminile è un'immagine che non ci rappresenta. Oggi sentiamo delle battute infelici sulle donne, oggi passa una come normale che una giovane ragazza possa mostrare in fondo schiena ai potenti e diventare ricca e famosa e a volte anche europarlamentare. Avallare questo come qualcosa di normale è molto pericoloso. Io credo che dobbiamo noi donne riprenderci un po' della nostra dignità. Dobbiamo fare in modo di riconquistare la dignità che ci stanno togliendo. Ma quale dignità? Chi sta togliendo la dignità alle donne? Di cosa stiamo parlando? Poi leggo un'intervista all'Unità, sempre della Mannoia, e sentite questa, cioè, perché mette in mezzo Licio Gelli, addirittura Fiorella Mannoia, Licio Gelli. I nostri rappresentanti sono i nostri dipendenti. Questa è un po' alla Grillo. Sono al nostro servizio, li paghiamo con i nostri soldi, e fin qui, fila. Hanno svenduto e impoverito la scuola, anche con la connivenza della sinistra, realizzando in pieno il disegno di Licio Gelli, che non a caso ha chiesto il copyright. Ma che paese è un paese senza cultura, che nega risorse alla ricerca e alla formazione? Ancora, continua, non è che si ferma. Perché voleva incontrare il presidente Lula. Fiorella Mannoia voleva incontrare Lula, il presidente del Brasile. Sono stata invitata a conoscere Lula. Mi sarebbe tanto piaciuto incontrarlo, ma non ci sono andata perché il pranzo era a Palazzo Chigi. e alla fine tutte le cose che dico le pago. In tanti comuni non mi vogliono per le idee politiche. Una volta mi sono esibita circondata da volantini che mi accusavano di essere una sovversiva. E questo è sbagliato, per carità. Ma se uno vuole incontrare Lula, perché non dovrebbe andare a Palazzo Chigi? Cosa c'è a Palazzo Chigi? Quale mostro vi risiede? C'è un'altra cosa in cui la sinistra televisiva è specializzata. Sinistra televisiva, parlo di un'altra cosa, sempre di una donna parlo. Cioè quella nel cercare sempre delle vittime della censura, vittime naturalmente del grande mostro, o dei servi, come dicono, del grande mostro. E allora c'è la questione del direttore di Rai 3, defenestrato, secondo una certa versione, a favore di Antonio Di Bella, filo berlusconiano per antonomasia. E sentiamo allora Serena Dandini, che ieri sera, durante la sua trasmissione, commenta insieme a Bergassola il cambio di direzione a Rai 3, applausi a Ruffini, eccetera, eccetera, però poi perché adesso una sostituzione inopportuna? Il nostro direttore uscente Paolo Ruffini, un grande applauso, uscente, devo dire che ci ha supportato bene, e ci ha supportato specialmente in tantissime avventure, salutiamo. In tanti anni che siamo stati insieme, abbiamo portato avanti con grande libertà molti progetti, quindi certo, lo ringraziamo. Ma è giusto che un editore decida chi è il direttore, non fa una piega, però proprio adesso questa... un problema di tempi, dice lei, sembrava una cosa poi inopportuna. Comunque salutiamo l'uscente, saluterà l'entrante. Chi è l'entrante? Di Bella, io mitico. Voglio salutare anche Di Bella l'entrante, scusate, Di Bella che ex direttore del TG3. E questa è la Serena Dandini. Perché dovrebbe essere inopportuna adesso? Cosa c'è adesso? Non lo capisco. 800 24 00 24. Ci sono state tante presentazioni in televisione del libro di Bruno Vespa, Donne di Cuori, credo si chiami, edito da Mondadori. Una sola di queste presentazioni ha avuto un contraddittorio piuttosto forte. Non so se sia meglio o peggio, ognuno può fa le presentazioni come vuole, secondo il format e la tipologia del programma. Però sentite questa, qualche sera fa a 8:30. C'era Bruno Vespa e Gianni Barbacetto, fiero anti-berlusconiano, chiamiamolo così per carità, senza sminuire la professionalità di nessuno. E... sentite questa, sentitela. È l'uomo più ricco e più potente d'Italia e non solo, non riesco proprio a capire perché abbia bisogno anche anche perché si lamenti dei giornalisti, quando ha a disposizione giornalisti come Bruno Vespa che gli offrono una scrivania di ciliegio per firmare il contratto con gli italiani, che allora, gli offrono detto, quella scrivania di ciliegio, fate una verifica, l'avrebbero offerta tutti, credo anche Lilli Gruber, per firmare qui il contratto con gli italiani. E per quanto guarda i giornalisti a disposizione, ci vuole una notevolissima, scusami, faccia di bronzo a dire che io sono a disposizione di Berlusconi, quando Porta a Porta è l'unica trasmissione che dà la parola a destra e a sinistra, mentre per ragioni che io non discuto ma di cui prendo atto, tutte le trasmissioni di approfondimento della RAI sono di altro segno. Ora che Berlusconi, per carità, sia una vittima dei giornali, mi pare francamente abbastanza ridicolo, viviamo in un libero paese, ognuno scriva quello che vuoi, ma che tu dici che Berlusconi, francamente, ha a disposizione giornalisti come Vespa, questa per piacere te la restituisco con gli interessi. Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare, e nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Beh, in realtà Fiorella Mannoia ha parlato in questa intervista all'Unità anche di Roma, la città di Fiorella Mannoia, sentite. Naturalmente governa Alemanno, come sapete. La trovo cambiata in peggio. Mi sembra sporca, in stato di abbandono. Fino a 2 anni fa tutte queste, naturalmente governava la sinistra, tutte queste aggressioni agli omosessuali non si erano mai viste. Prima si respirava un'aria più tranquilla, si stava meglio. Adesso c'è tanta intolleranza. Da nord soffiano dei venti orrendi e da qui non si sa o non si vuole arginarli. Se istighi all'odio, prima o poi trovi sempre qualcuno che ti dà retta. Certa gente non aspetta altro che qualcuno li sdogani. Va bene, torniamo a Vespa versus Barbacetta, 8:30 l'altra sera, perché poi la carella è continuata con un Vespa particolarmente arrabbiato quando, per esempio, Barbacetto gli ricorda che il libro è scritto per Mondadori, e beh? Cioè, e anche il suo editore, lo stesso libro di cui parliamo stasera è edito dalla Mondadori, e cioè da Berlusconi. Perché i libri di Saviano, i libri di D'Alema, della Litizzetto, la casa editrice Einaudi, in cui ci sono tutte le cose di sinistra della storia italiana, di chi sono? Il problema, come mai il non ricordate mai che la casa editrice Einaudi, che è la casa più di sinistra italiana storicamente, è di Berlusconi? Barbacetto, te lo sei scordato che l'Einaudi di Berlusconi? Barbacetto, l'Einaudi di chi è? Addosso. Rispondi, l'Einaudi di chi è? Barbacetto, di chi è? Ma di Berlusconi. Allora va bene così, d'accordo. C'è? Benissimo. Ci la storia d'Italia dell'Einaudi è una storia di destra. Ci sono molti scrittori che sono usciti dall'Einaudi proprio per questo motivo. Certo, guarda, l'Einaudi infatti sta fallendo per questo, guarda. Per esempio Corrado Stajano. Madonna santa, infatti c'è una lapide, di qui è uscito Corrado Stajano, a memoria di quelli che sono rimasti. Va bene, devo dire che ogni tanto Vespa tira fuori nel contraddittorio alcune armi particolarmente efficaci. Cucire addosso il vestito, un altro momento di questa vita formidabile. Lei cuce il vestito addosso non soltanto a Berlusconi, a Fini, ma anche a D'Alema, a cui fa cucinare il risotto. Certo, memorabile trasmissione che rifarei domani, caro Barbacetto. Voi siete più bravi nel cucire le forche adesso alle persone. Io preferisco vestiti e risotti e non cappi, come fate voi professionalmente, che siete dei cappiaioli di ottima qualità. Va bene? Una sartoria, il cappio. Lei, Travaglio e tutti i vostri amici. Complimenti. Lei a tutti deve offrire un... I politici per lei sono tutti, mentre il giornalista, possiamo chiederlo al professor Sabato, dovrebbe fare delle domande forse, no? Professor Sabato, mi ultima dica una parola domanda che lei... non ho fatto a Berlusconi. Oh, ne posso fare decine. Va bene, e poi ci vediamo una prossima volta in un dibattito pubblico. Magari una prossima volta in un dibattito pubblico, magari qui a Radio 24, 18:51, 800 24 0024, abbiamo 4 minuti, cerchiamo di utilizzarli al meglio. Livio da Bologna, buonasera. Buonasera, volevo intervenire in merito a Stanca. Sì, Stanca, perché non si dimette, Livio, me lo dica, perché non si dimette da deputato? Perché non si dimette, perché è nelle condizioni che può anche non dimettersi, non mi piace la risposta che lui ha dato. Però io non sarei poi... Perché la legge glielo consente, dice lei. Esatto, esattamente. Ho capito, ma ci sono leggi fatte male, poi ci sono anche motivi di opportunità, di coerenza. Se uno fa l'amministratore delegato di Expo 2015, che è un lavoraccio, che è un lavoro che ti impegna dalla mattina alla sera, cosa ci sta a fare in Parlamento? È una questione di logica. Uno può fare il comune di sindaco del comune di... Ieri ci siamo sbagliati, di Orbetelle, non di Cecina, Matteoli, ma l'amministratore delegato di Expo non si può fare insieme a parlamentari, mi pare ovvio, no? È certo che è ovvio, sono d'accordo su questo, cioè sulla coesistenza di due incarichi, in questo caso specifico io sono assolutamente contrario, però non farei una norma, un qualcosa che lo vieti a priori in maniera così tout court, senza variazioni o sfumature, perché ad esempio se un parlamentare appena eletto riceve il giorno dopo un incarico breve di un anno, due anni, massimo tre anni, perché non lo deve poter fare? È chiaro che se ricevo un incarico e lo accetto e questo mi dura una legislatura... Guarda che tre anni è quasi una legislatura comunque. Ecco, certo, in Italia sì. O faccio una cosa o faccio l'altra. Allora basterebbe infilare una piccola norma, che ne infiliamo tante in decreti sicurezza o altro, una piccola norma che dice voi due incarichi, benissimo, rinunci al compenso... di uno dei sì, ma non due, è magari, tanto una questione maggiore, non è, sì, non è tanto una questione di compensi, però Livio, perché tanto il risparmio per lo Stato non esiste, perché al posto di Stanca entra in Parlamento un altro, cioè non cambia diciamo uno stipendio a un parlamentare, sì, bisogna darlo comunque, non è tanto una questione di stipendio, sì, ma proprio... lo diamo a un parlamentare che magari è presente, sì, vota e esatto, per cui i cittadini l'hanno mandato lì. Esatto, bravo, grazie Livio. A me poi fa impazzire una delle risposte che ha dato la Moratti a questa polemica recente, no? Sollevata soprattutto da Repubblica, ma non solo da Repubblica, anche dal Corriere della Sera, giustamente da tutti. La risposta della Moratti è stata, beh, insomma sì, mi pare, rispetto alle questioni dell'Expo, ai problemi che ci sono, è una questione minore. Ma una questione minore cosa? Quale questione minore? Stefania da Genova. Sì, buonasera. Dica. Telefono per il suo commento iniziale contro e sul dire di Fiorella Mannoia. Sì. E trovare non lesa la dignità delle donne. Sono in che cosa bisognerebbe trovarla lesa? Mi scusi. In tutto. Gli esempi che abbiamo è quello che ha detto Fiorella Mannoia, che oggi, e lei mi auguro non voglia negare il fatto che se ci sono delle donne bellocce che hanno dimostrato interessi, hanno ricoperto dei ruoli nel nostro Parlamento e dappertutto, se questa non è dignità lesa, lei mi deve dire che cos'è. Non lo capisco più, questo discorso. Scusi, io la seguo da tantissimo tempo e sono amareggiata perché vedo che lei ha preso una deriva pesante e non la riconosco più. Allora, mi dispiace, chiedo... Stefania. Lei è qui a parlare di quello che vuole, sta dicendo. No, ma non ho detto che lei non dà spazio, ho detto dei suoi. E allora parli, dica la sua opinione, io dico la mia. Uomo non è indignato che ha delle sorelle o delle mogli. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Non vedo questo clima. Scusi un attimo, sarà legittimo non vedere questo clima? Di non so di che cosa, in cui la donna viene vilipesa, in cui c'è un'immagine della donna senza dignità. Io non lo vedo questo clima qui, non lo vedo nella maniera più assoluta. Sarà legittimo avere questa opinione oppure no? Come la trova? Mi scusi. Come, scusi? Parlare di una donna in base alla bellezza, solo come fa. Senta, se lei difende il Premier. Io sto difendendo il Premier, io sto parlando di un'altra cosa. Fiorella Mannoia parlava di dignità lesa e lei non la cattura. Non lo capisco, non è cattura, non lo capisco proprio. Lo capisco se non con riferimento. Guardi, Stefania, no, non c'è questo problema. Francamente, non c'è. TG3. Per difendere il lavoro in Piazza Roma gli operai dell'Alcoa, rischio chiusura, tensioni e scontri con la polizia, un sindacalista ferito. CGIL, sciopero degli statali l'11 dicembre, Tremonti, il deficit può crescere solo per finanziare la cassa integrazione. Impicchiata le borse di tutto il mondo per il crollo di un fondo statale a Dubai con debiti per 59 miliardi di dollari. Il governatore di Banca Italia Draghi al sud la mafia negli enti locali, la criminalità frena lo sviluppo, Napolitano, la crescita del sud serve a tutti. Minaccia Schifani, rafforzata la scorta, scontro sulle rivelazioni di Spatuzza, il PDL avanti col processo breve, Berlusconi fuori chi non condivide. Stop del Senato alla pillola abortiva, serve il parere del governo, dubbi nel PDL, Finocchiaro si fa demagogia sulla pelle delle donne. Un'altra vittima del carcere, detenuto anoressico, muore a Regina Coeli e su Cucchi, i 5 parlamentari denunciano, è stato abbandonato. I cori contro Balotelli, indagano UEFA e Procura di Torino, ci sono anche interrogazioni parlamentari, Lippi, più antipatia che razzismo. Allora, in realtà i titoli domani dei giornali, magari mi sbaglio, saranno su una frase di Berlusconi, su una frase che Berlusconi avrebbe detto all'interno del comitato di presidenza del PDL. Non c'è solo la frase adesso citata dal TG3, dai titoli del TG3, cioè chi non rispetta le decisioni prese a maggioranza dal PDL è fuori, dunque un riferimento neppure troppo implicito ai cosiddetti Finiani, allo stesso Presidente della Camera, ma un'altra frase: dalla magistratura è in atto una deriva eversiva, la persecuzione dei PM, questa è la frase, ci porta sull'orlo della guerra civile. La guerra civile evocata da Berlusconi come chiusura dell'attacco che ci sarebbe, secondo lui, da parte dei magistrati. Sky TG24, sentiamo come titola. Berlusconi detta la linea, avanti con il processo breve, nel PDL chi non si adegua è fuori. Finanziaria, Tremonti annuncia più fondi per gli ammortizzatori, per Bersani non basta. Minacce di morte a Renato Schifani, solidarietà bipartisan e scorta rafforzata. Pillola abortiva, stop del Senato all'introduzione negli ospedali della RU486. Rinforzi in Afghanistan, Frattini non dà cifre, prima va discussa la strategia. Dubai World in crisi, banche europee esposte, le borse bruciano 160 miliardi. Donna con le mani mozzate uccisa vicino Varese, fermato il presunto assassino. SMS meno cari, il garante ottiene tagli dalle compagnie telefoniche da gennaio. Strascichi di Champions, la Juve pensa al caso Balotelli, Moratti furioso con l'Inter. Il lancio di Cielo sul digitale terrestre, canale generalista con le news di Sky TG24. Siamo qui 800 24 00 24 per la nostra cara amica Stefania da Genova, con cui stavamo amabilmente discutendo prima dell'interruzione, che è ancora con noi. Facciamo riascoltare allora le parole di Fiorella Mannoia, credo che fosse un'intervista al TG3, un'intervista al TG3 di ieri, e che ho io pesantemente criticato, ma non pesantemente criticato, ho detto che io adoro Fiorella Mannoia, continuerò sempre ad ascoltare le sue canzoni, però quello che dice mi sembra totalmente fuori dal mondo. Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare, e nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Siamo in un momento in cui l'immagine femminile è un'immagine che non ci rappresenta. Oggi sentiamo delle battute infelici sulle donne, oggi passa una come normale che una giovane ragazza possa mostrare in fondo schiena ai potenti e diventare ricca e famosa, e a volte anche europarlamentare. Avallare questo come qualcosa di normale è molto pericoloso. Io credo che dobbiamo noi donne riprenderci un po' della nostra dignità. Dobbiamo fare in modo di riconquistare la dignità che ci stanno togliendo. Delle città importanti mi ricordo. Qualcuno, secondo Fiorella Mannoia, sta togliendo dignità alle donne. Allora, torna all'attacco, stavolta per responsabilità un po' nostra, lo dico ironicamente, il ministro più inutile che c'è, diciamo la verità, perché qualcuno mi deve ancora spiegare. Non ce l'ho con Rotondi direttamente, ognuno fa quello che può. Il ministro più inutile che c'è, il ministro per l'attuazione del programma, qualcuno mi deve spiegare ancora cosa fa un ministro per l'attuazione del programma. Credo che ce l'avesse anche il centrosinistra, è da un po' di tempo che c'è. Ministro per l'attuazione del programma, cosa fa? Chiede ogni tanto a Berlusconi, ma questo l'hai fatto, non l'hai fatto? Sovrappone le promesse del governo con le cose realizzate, come fa a sovrapporle? C'è un metodo scientifico? Rimprovera i ministri, mette i 4, i 5, i 6, i 7 in pagella? Non lo so, francamente non so quello che fa. Dunque, di conseguenza, magari si annoia un po' e tira fuori idee un po' bislacche, di cui però si discute da giorni, come sapete, questa questione della pausa pranzo, la pausa pranzo. Questa mattina, bianco e nero, la trasmissione condotta da Alessandro Mina, c'era Rotondi che ci ha fatto divertire in realtà un sacco, perché comunque è simpatico, un simpatico napoletano che si sente l'erede più puro della Democrazia Cristiana. Sentitelo. Io mangio poco e spesso, e assolutamente non è che saltare il pranzo significa non prendere nulla, significa nutrirsi con piccoli spuntini appunto ravvicinati e magari poi mangiare in famiglia la sera quando finita la giornata. Ma questo non significa un cattivo rapporto col cibo, al contrario buono, perché quando uno ha alle spalle i pensieri si concentra anche su quel che mangia. E dunque siamo arrivati ai consigli in stile nutrizionista, diciamo, di Rotondi, che dice, beh, meglio mangiare, che poi è un consiglio che danno in tanti, però insomma capite che se arriva dal ministro per l'attuazione del programma la cosa assume una forza particolare. Bisogna mangiare poco e però tanto durante la giornata. Poi, perché comunque fa sempre un minimo di audience e si raccoglie un po' di consenso, spara sulla politica, sulla casta di cui fa parte, la cosiddetta casta di cui fa parte, e dunque dice aboliamo la buvette, i ristoranti, insomma, della Camera, del Parlamento, togliamoli, non servono. Certamente riferirò al Consiglio dei Ministri i risultati dei sondaggi, delle lettere che mi sono arrivate, ma solo per cronaca, non tocca a me farlo. Vabbè. Voglio aggiungere una cosa, che io non sono un demagogo, ma se ho proposto di abolire i ristoranti della Camera è solo perché nei 3 giorni di votazione, se ci mettiamo alla pausa pranzo, succede quello che si vede, cioè che la Camera funziona soltanto per assecondare il lavoro del governo e non fa leggi. Quindi mi sembra che nel caso dei deputati, sì, L'abolizione della pausa pranzo sia un'assoluta necessità. Allora, questioni inutili che arrivano in Parlamento, per carità, è una vicenda seria, ha a che fare con un giocatore italiano di colore che è Balotelli dell'Inter, però che bisogno c'è che questa storia dei cori contro un giocatore da parte di una parte, scusate il gioco di parole, di un ristretto gruppo di tifosi della Juventus arrivino fino in Parlamento? Non c'è alcun bisogno, eppure oggi il nostro amico deputato del Partito Democratico Giachetti ha sollevato la questione insieme ad altri, interrogazioni parlamentari su Balotelli. D'altra parte, in Parlamento qualcuno deve passare il tempo a fare qualcosa, a proporre qualcosa, dai cani, dalle orecchie, dalle code. Sentiamo. Qualcuno si è anche spinto a cercare di dire che questi non erano cori razzisti ma cori imbecilli che vengono fatti negli stadi normalmente. Per poter dare una risposta a questo, questi hanno certificato nel corso della partita di ieri, peraltro svoltasi non in Italia ma all'estero, Bordeaux-Juventus di Champions League, hanno firmato chiaramente che invece sono cori razzisti, perché a quello si è aggiunto un coro che dice un negro non può essere italiano. Voglio rispondere a qualche ascoltatore che mi scrive: basta pubblicità, ma quanta pubblicità, troppa rispetto alla trasmissione. Un altro ancora: non è possibile fare 8 minuti di pubblicità. In realtà non è così, ci sono stati dei problemi, non è colpa nostra. E va bene, sono tanti effettivamente 8 minuti di interruzione, e dunque per questo mi scuso con tutti voi che siete all'ascolto. Andiamo però rapidi, e soprattutto andiamo a voi che avete chiamato, che siete in onda. Guido da Arezzo, buonasera. Buonasera. Prego, Guido, dica. Volevo intervenire su quanto asserito dalla Mannoia. Io sono perfettamente d'accordo con quanto dice questa signora. Sì. Perché vedere questa oggettificazione della donna in televisione è diventato veramente disgustoso. Sembra che se una donna non abbia degli elementi da esporre non si prenda in considerazione. Ma non è vero, Guido, non è così. È vero, caro. Ci sono delle trasmissioni dove ci sono delle dove compaiono delle ragazze senza veli, ma ci sono un sacco di trasmissioni dove in realtà ci sono delle donne che discutono amabilmente di politica, di società e di cose più o meno importanti. Dunque, questa mercificazione della donna in televisione, io francamente mi sembra che sia vada di pari passo con i tempi, non ci sia niente di particolarmente imbarazzante, insomma. Io penso che per una perché tutto questo poi, ma a prescindere dal fatto che la televisione metta in mostra solo belle ragazze come dice lei, e io non sono d'accordo, perché questo qua dovrebbe ripercuotersi sul concetto di dignità della donna? Non lo capisco. Ma perché sì, perché la donna non è soltanto un qualcosa da poter guardare come una statuina, essendo un essere umano, voglio dire, avrà un intelletto e tutto un resto che soltanto vedere seni e fondo schiena non secondo me non la valorizza. Sì, ecco, ma ripeto, secondo me è sbagliato. È come quella sociologa italiana che sta in Francia, una di quelle che ha fatto gli appelli contro Berlusconi, attribuendo a Berlusconi la responsabilità di questa, che secondo lei è una deriva. Ma infatti è proprio lì che volevo arrivare. Guido, è tutto un bel disegno questo. Sì, qui. Il disegno perché di Berlusconi di mettere le ragazze nude in televisione, perché cosa? Mi scusi. A che scopo? Quando lei si colpa delle azioni, lei si inferocisce, lo so. No, io non mi inferocisco per niente, non me ne frega nulla. Guardi, Guido, voglio capire il disegno che c'è dietro questa cosa, me lo spieghi? Si deve tenere la massa attaccata a quella scatolina senza pensare ad altro. Ah, ho capito. Le scuole si fanno sempre più inefficienti perché l'ignorantizzazione del popolo. L'ignorantizzazione del popolo. Beh. Serve l'ignorantizzazione del popolo. Bene, grazie. Massimo da Lecce, buonasera. Buonasera. Massimo. Caro no, Massimo. Buonasera. Buonasera. Ascolti, io praticamente non condivido il discorso di Bruno Vespa, no? Che si dica che è un giornalista di Berlusconi, anche se no, non a è disposizione di Berlusconi, ha detto Barbacetto con per essere esatti. Cruciani, diciamo che la storia di Bruno Vespa recente, almeno degli ultimi 3-4 anni, sì, diciamo il modo con cui lui ha fatto giornalismo lascia invece pensare che lui sia appunto giornalista a disposizione di Berlusconi. Però quello che io dico, no? Sì. Se io di Bruno Vespa non posso dire che sia un giornalista a disposizione di Berlusconi, allora perché mi devo io come semplice cittadino devo ascoltare in TV in radio, dappertutto, che la per esempio la trasmissione Anno Zero è di parte. Allora io le dico che Anno Zero, da quando la sto vedendo quest'anno, vede ospiti abitualmente Ghedini, che è l'avvocato diretto del Premier, quindi chi meglio di Ghedini difende il Premier, vede sempre i ospiti. Ma perché lei ci vuole fare questo paragone tra Anno Zero e Porta a Porta? Caro Cruciani, perché quando si dicono le cose poi bisogna vedere quello che c'è dietro, no? La storia di ogni cosa che si dice. Allora se non va bene che si dica Bruno Vespa è un giornalista a disposizione di Berlusconi, perché bisogna dire, per esempio, l'ha detto anche Bruno Vespa, che alcune trasmissioni in Rai sono orientate a sinistra. Allora, ecco, vedi, insomma, che la discussione che però non è su questo, fare confronti, quello è di sinistra, quell'altro è più inclino alla maggioranza. In quel frammento che abbiamo fatto ascoltare, in realtà erano tre frammenti di una trasmissione 8:30 in cui c'erano Vespa e Barbacetto, c'erano da sottolineare due cose. La prima è che è successo almeno una volta che durante le presentazioni del libro di Vespa in televisione, che ci sono state, ce ne sono state tante, c'è stato un contraddittorio, e questo va benissimo. E la seconda cosa è che dire a Vespa tu sei un giornalista a disposizione di Berlusconi mi sembra una critica sbagliata. Era forse fondata un'altra critica, quella sul tipo di domande che vengono fatte ai politici durante le trasmissioni di Vespa, non perché non vengano fatte domande, perché magari non viene fatta la seconda, la terza, non si va a fondo in alcune, ma questo è un discorso che possiamo fare, ripeto, sul modo in cui si fa informazione nella televisione pubblica, o si fanno i talk show nella televisione pubblica, in alcuni talk show o in generale poi nei talk show, si può discutere anche di questo. Ma insomma, Massimo, fare i confronti tra due trasmissioni mi sembra sbagliato, no? Ognuno ha la sua sensibilità, ognuno ha il suo pubblico, o no? Cruciani, è un confronto comunque che ha tirato in ballo lo stesso Vespa. Quando mi parla di altre trasmissioni solo di una parte... Vabbè, non c'è dubbio, Massimo, non c'è dubbio che Anno Zero abbia un certo tipo di timbro, mentre Porta a Porta è una cosa un po' più ecumenica, diciamo, no? Un po' più istituzionale. Almeno questo si può dire, che c'è una differenza da questo punto di vista, o no? Sì, però da lì a dire che Anno Zero è di parte, che come si sente sempre... Non è di parte, è dalla parte di Santoro, è una trasmissione che Santoro, ha la sensibilità, che riflette la sensibilità, guardi, di Santoro. Cruciani, è sbagliato, perché io ho visto... Ma per esempio, non è così, allora Santoro non c'entra, la sensibilità di Santoro, Anno Zero non c'entra niente, è il fulcro di tutta la trasmissione. Un attimo... Sì, no, però voglio dire, io vedo ospite di Santoro, per esempio il senatore Fazzone, direttamente accusato di alcune cose, e chi si chiama per difendere Fazzone? Fazzone stesso, quindi secondo me è un esempio... altro che di parzialità, di democrazia questa, me lo lasci dire, perché voglio dire, invitare Ghedini, Belpietro, ci stanno invitando, ha invitato la settimana scorsa anche Feltri, che non sì, è Massimo, andato, ma nessuno dice il contrario, che non ci siano, come dire, ospiti di una parte politica, nessuno, la discussione su Anno Zero è un'altra, se si vuole fare una discussione io non la faccio su Anno Zero. La ringrazio. Intanto abbiamo Fabio Fecci, che è assessore alla sicurezza del comune di Parma. Buonasera. Buonasera a lei. Eccoci qui. Gabriele da Roma. Aspetti un attimo, Fecci. Gabriele, buonasera. Io sono d'accordo con lei, sono assolutamente contro la Mannoia, nonostante io sia sempre stato un elettore di sinistra. Per un motivo, io trovo che in queste dichiarazioni ci sia una sorta di denuncia dell'insicurezza delle donne, perché il fatto che il presidente abbia utilizzato delle prostitute dovrebbe allora far alzare le antenne agli uomini e dire: le diamo la dignità degli uomini perché sono tutti dei puttanieri. Cioè, è lo stesso discorso. E tra l'altro trovo anche che sia un incontro tra domanda e offerta, cioè se ci sono una miriade di ragazzine disposte a spogliarsi in televisione, forse la Mannoia se la dovrebbe prendere con loro, ce la si dovrebbe prendere con le donne che si presentano ai provini delle trasmissioni per fare quello che fanno. Non capisco perché non si attacchino a questo punto le donne piuttosto che gli uomini che fanno uso delle donne. Sì, ma poi io non vedo il problema che riguarda la dignità delle donne, francamente, non lo vedo, non so, cioè non capirò le parole, sarò un uomo, forse questo, io e lei siamo uomini, forse meno sensibili a queste cose, ma un sacco di mail che mi hanno mandato delle gentili signore o gentili ragazze in cui, insomma, dicono di non aver nemmeno capito a cosa si riferisce esattamente Fiorella Mannoia, no? Perché io trovo che sia molto fumoso questo discorso della dignità femminile, le ripeto, cioè nessuno si ritiene di essere giudicato, che gli italiani vengano tutti giudicati dei puttanieri perché il presidente del Consiglio ha fatto uso delle prostitute. Quindi allo stesso modo non capisco perché questo possa avvenire per le donne. Se una donna è sicura di sé e della sua intelligenza, non, nulla questio, insomma. Sì, e poi è vero, come diceva l'altra, un'altra ascoltatrice, che in televisione passa solo un certo tipo di femminilità. No, non è vero, non è così. Almeno io non ho queste impressioni, io guardo la televisione, la guardo anche parecchio. Guardi, io devo riconoscere che sicuramente c'è un ma scusate, ma Striscia la Notizia, cosa vogliamo, cosa volete che passi? Ma infatti, devono scegliere, io sono molto meno scandalizzato da Striscia la Notizia di quanto, tra virgolette, possa essere scandalizzato dalla trasmissione che va su Italia 1 di Papi, dove c'è una ex partecipante del Grande Fratello. Che trasmissione è, mi scusi? Non mi ricordo, forse Prendere o Lasciare si chiama, qualcosa del genere. Dove c'è, è una trasmissione di intrattenimento comunque. Sì, assolutamente, ma c'è Raffaella Fico che viene ripresa in posizioni che sono 100.000 volte peggio di quella della Striscia. Quindi si attaccano le veline. Sì, poi per attaccare tutti, però ripeto, mi sembra un problema che dipenda da come le donne si attaccano al concetto che c'è di loro, ma forse si dovrebbero preoccupare di quello che fanno direttamente, non accusare il Presidente del Consiglio, ad esempio. Bene, grazie Gabriele, 800 24 00 24, e siamo qui con il nostro assessore del Comune di Parma. Perché l'abbiamo chiamato? Perché insomma vogliamo insistere su questa vicenda delle case chiuse, lo dico per farmi capire dagli ascoltatori. Fecci è assessore alla sicurezza di una giunta di centrodestra, è del PDL, dopo un lungo trascorso nella Democrazia Cristiana e poi del Partito Popolare, e dice senza remore che bisognerebbe istituire degli Eros Center. Cosa significa Eros Center rispetto alle case chiuse, diciamo? Qual è la differenza, Fecci? Beh, la differenza è che saranno più moderne rispetto a quelle di allora. Ah, però il concetto è quello. Però. Il concetto è quello, perché la prostituzione sta diventando un fenomeno sempre più dilagante in tante città italiane, sia nei luoghi pubblici, nelle strade, nei parchi, ma anche e soprattutto negli edifici privati. Quindi è a tutti gli effetti un problema. E poi soprattutto basta con l'ipocrisia, immagino, no? Ma io penso che l'ipocrisia, cioè è inutile far finta di non avere la polvere in casa mettendoci sopra un tappeto. Io penso che questo qui sia un fenomeno che vada regolamentato, perché non regolamentato è sicuramente peggio. Dobbiamo ricordare a tutti che la prostituzione non è reato, ma è reato lo sfruttamento. Quindi siamo arrivati in una situazione davvero indecente e viene danneggiato anche il decoro. E voi a Parma che fate? E noi a Parma abbiamo fatto due ordinanze, una che chiaramente è l'ordinanza che poi faceva parte della Carta di Parma, dove si multano, si contravvenzionano le prostitute nei luoghi pubblici, nelle strade e anche i clienti. Però, ecco, però mi scusi, fare un'ordinanza... È stata fatta anche l'ordinanza per colpire la prostituzione nelle case, perché le lamentele ormai della gente sono veramente molto elevate. Però mi scusi Fecci, voi diciamo in teoria, anche se non lo potete fare concretamente perché le leggi non me lo consentono, volete istituire gli Eros Center, cioè volete riaprire le case chiuse, lo dico per farci capire. Questa è una mia idea come amministratore. Ho capito, però nello stesso tempo bisogna affrontare questo argomento, no? E la gente sempre di più comunque continua a chiedere maggiore sicurezza. E va bene, d'accordo. Questo fenomeno. Nello stesso tempo, però, Fecci, mi scusi un attimo. Di tante donne. Sì, sì, no, ma questo lo dicono apertamente? Lo dicono apertamente le donne. Lo dicono apertamente, anche secondo me, per tutelare le donne stesse. Però, Fecci, mi scusi un attimo, non c'è una contraddizione tra la sua idea, sulla quale però lei mi dice c'è il consenso più o meno ampio all'interno della giunta, e no, della giunta questo qui è una mia idea, come io l'ho posta nell'ottica di tanti anche amministratori che si stanno comportando, diciamo, cioè il suo sindaco per esempio è d'accordo per questa decisione, fondamentalmente il suo sindaco è d'accordo, per esempio. Ma il mio sindaco lo dovrà dire, sarà d'accordo o meno. Vabbè, lei lo sa. Il nostro sindaco ha fatto queste ordinanze chiaramente per cercare di arginare questo fenomeno. Però non sono un po' in contraddizione con questo, quelle ordinanze, cioè multare le prostitute e i clienti. Poi lo sappiamo che le prostitute non potranno mai pagare, i clienti ogni tanto pagano, ogni tanto no. I clienti pagano, le prostitute magari pagano un po' di meno, però comunque abbiamo fatto abbassare, diciamo, il numero di donne sul suo territorio, ma abbiamo comunque spostato il problema. Spostato. Infatti, e poi pure punire la prostituzione dentro le case, come dice lei, insomma non è in contraddizione col fatto che volete aprire degli Eros Center? Ma io penso che l'Eros Center sia una situazione molto da valutare con molta attenzione, perché intanto avremo più controlli igienico-sanitari anche su chi esercita la prostituzione, le visite mediche obbligatorie e quindi trasmettersi di malattie. Ma questo sono d'accordo con lei. Soprattutto il racket e lo sfruttamento. Ma d'accordo, Fecci, io su questo sono d'accordo con lei, però essere su questo piano, cioè avere quest'idea, cioè che prima o poi bisognerà riaprire le case chiuse, fare degli aero center che sarebbero la versione aggiornata delle case chiuse, eccetera eccetera, nello stesso tempo voi fate tutto il contrario, cioè punite le prostitute che stanno per strada dei clienti, punite quelle che esercitano dentro le case. Noi non siamo solo per la repressione, noi vi posso dire che abbiamo un progetto di strada in strada che in 10 anni a Palma sono state recuperate e tolte dalla strada più di 300 donne che sono state chiaramente attraverso i servizi sociali riavviate a tutta una vita e ad una maggiore dignità. E gli ho detto, questo qui dell'ordinanza sicuramente è un modo che viene dato ai sindaci per cercare di rispondere alle richieste dei cittadini, perché poi l'Euro Center, o il ritorno alle case chiuse, lo deve legiferare il Parlamento. Lo so. E quindi molto spesso ci si nasconde dietro una questione morale. E secondo me la questione morale riguarda chi va a prostitute, riguarderà chi andrà negli Euro Center. Ma io penso che i nostri rappresentanti del governo hanno il compito di risolvere questo problema, tenendo un atteggiamento il più laico possibile. Quindi è questo. Ma quante multe avete fatto? Da quant'è che c'è l'ordinanza sulle multe? L'ordinanza sulla prostituzione è dal 2007. E quante multe sono state fatte? In media quante vengono? In media se ne fanno una ventina all'anno. Ecco, 20 all'anno, così poche? No, ma sì, ma perché non c'è una caccia, diciamo, ad esempio invece su questa qua delle abitazioni abbiamo sicuramente anche con più difficoltà, però la gente ci chiama e noi abbiamo messo nella nostra ordinanza anche quelle, diciamo, le donne che occupano gli spazi. Cioè la gente vi chiama e che dice? Che dice la gente? Diciamo che fondamentalmente creano anche disturbo. Ma quindi, la gente che vi chiama per dire cosa? Cioè lì noto un giro di prostituzione? Ci sono le prostitute e quindi fondamentalmente si lamentano perché magari... E le multe sono su che cosa? In un condominio c'è magari 10-12 appartamenti, cioè ce ne sono 2 o 3 che sono occupate da prostitute. E la multa per che cos'è? Mi scusi. Pensate alle famiglie che tutti i giorni devono convivere con questo... No, ma questo lo capisco, ma le multe... I minori, soprattutto sì. I minori, i bambini. Ma le multe sulla base di cosa le fate dentro... Le multe sulla base del disturbo, la quiete pubblica, del... Diciamo, dentro le case, l'occupazione di zone pertinenziali all'interno dei condomini, no? Le zone, diciamo, dove loro stazionano anche per adescare. Mi sembra un po' campata in aria la cosa, Fecci. No, non è campata in aria. Cioè, dentro casa uno fa quello che vuole, dentro casa, purtroppo, come noi non vogliamo interagire e chiaramente arrivare alla violazione del domicilio privato. E quindi non possiamo neanche farlo. Allora? Dobbiamo chiaramente abbiamo messo nell'ordinanza, come dicevo, le pertinenze condominiali, il disturbo della quiete pubblica e chiaramente le segnalazioni che ci devono arrivare da parte di chi risiede all'interno di questo stesso palazzo. E bene arrivano, insomma. E beh, insomma, non è di facile applicazione questa ordinanza. Infatti, è stato un momento che comunque è stato un deterrente, sicuramente, perché posso dire che in alcune zone, già in 10 giorni, comunque i clienti hanno diminuito sicuramente le loro frequentazioni. Ma poi ricominciano tanto. Dopo ricominceranno, ecco perché dico, questo fenomeno comunque qualcuno dovrà prima o poi prenderlo in mano seriamente. Assolutamente. E cercare di dare una risposta. Fecci, la ringrazio, un ascoltatore mi scrive, io abito a Parma e oggi ci sono più prostitute sulla strada di prima, però vabbè, questa magari può essere un'impressione. La ringrazio, Fecci, buona serata. Grazie a lei, buona 19 sera. 53 40 800 24 00 24. Maria Teresa da Milano, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, dica. Sì, buonasera. Volevo intervenire su quello che ha detto la Mannoia, nel senso che io sono perfettamente d'accordo su quello che lei afferma, però non vorrei aggiungere molto, sento un ritorno, cioè non permettete alla gente di parlare nella maniera, cioè non si sente niente quando... Ma io sento sento benissimo, Maria Teresa. Ma lo so, ma lei non mette le condizioni alle persone di capire. Veramente. Non può aumentare il volume. Non mi risulta, adesso la richiamiamo, calma, tranquilla, grazie. Adesso la richiamiamo, evidentemente c'è qualche problema. Non è che c'è una congiura, Massimo da Milano, buonasera. Alberto da Genova. Eccoci qua. Buonasera. Eccoci, Alberto. Buonasera, mi sente? La sento, dica. Bene, senta, io volevo esprimere il mio dissenso rispetto alle sue affermazioni circa le posizioni della Mannoia, che personalmente condivido. Riconosco la legittimità di avere posizioni diverse. Mi piace poco la sua introduzione, che praticamente era una demolizione di fatto del personaggio Mannoia, per sostenere poi la sua causa. Ma non mi risulta proprio che sia una demolizione. Non risulta, come non risultano molte altre cose. Va bene, pazienza. Cioè... A lei normalmente non risultano le cose. Condivide. Sì, e Alberto, mi scusi un attimo, quando un attimo solo, arrogante, sì, arrogante, sì, chi vabbè. La pensa diversamente. E infatti lei sta parlando tragicamente, sì, figuriamoci certo, un po'. Ma lei sta cercando di tagliarmi le. Ma io non sto cercando di interloquire con lei, se lei consente. Se lei consente, sto cercando. Se lei consente, sto cercando di. Che lei non capisca le posizioni della Mannoia è legittimo, ma è un problema suo. E infatti è un problema. Lei non è il depositario della verità. Assolutamente no. Ecco, quindi deve avere l'umiltà. E io sto qui ad ascoltarlo, io sono qui ad ascoltare, con molta umiltà. Entrambe le posizioni. Sono e qui. Non di cercare di far valere di più la sua. Ma io non sto cercando di far valere nulla, è lei non che sta. In questo momento, non lo sta facendo con me in questo momento. Lo fa abitualmente, lo ha fatto in occasione. Ho semplicemente detto la mia opinione, espresso la mia opinione, Alberto. Adesso lei sta dicendo questa è la mia opinione. Sì. Quando invece lei ha introdotto l'argomento... Ma è uguale, dico sempre la mia opinione, è la stessa cosa. No, guardi, no, Alberto, è diverso. Non siamo così fessi da non cogliere le cose che... Io non so se lei è fesso o non è fesso, per cui non è questo il punto. Poi la seconda cosa che le volevo dire... Sì, ma Alberto, è inutile che cerca di sfuggire al punto fondamentale. Apre un problema... Se volessi sfuggire, non avrei chiamato due volte... Allora, Alberto... i suoi filtri... Non c'è nessun filtro, non dica stupidaggini. Informi anche su questo. Dica stupidaggini perché non c'è nessun filtro. Le dice lei, non si permette di dirmi che dicono le stupidaggini. Lei dice delle stupidaggini quando dice che ci sono le i filtri. Le dice lei, perché le posso dire che mi sta chiesto giustamente da dove telefono, il numero di telefono. E allora qual è il problema? Questo è normale. Ma che mi si chieda prima che cosa voglio dire. No, che cosa voglio dire? L'argomento. Sì, l'argomento. No, perché io ho detto, guardi, vorrei parlare a proposito delle posizioni che ha assunto Cruciani nei confronti Benissimo, della guardi, è bene, cioè lei è il benvenuto qua. È il benvenuto qua. Cioè, doveva essere sufficiente. E infatti invece è sufficiente. No, sì, ma mi dica che cosa vuol dire. Ma cos'è una censura preventiva? Ma quale censura preventiva, Alberto? Ma allora perché questo tipo di interrogatorio? Ma quale interrogatorio? Ho chiamato due volte. Alberto, sta dicendo delle cose che non hanno senso. C'è un tale filtro. Non perdiamo tempo in queste cose. No, c'è infatti Vespa. No, Alberto, un attimo solo. Un attimo. Vespa sostiene Alberto, un attimo, le sto dicendo. Con Berlusconi, vabbè. Dove è presente il contraddittorio. I titoli dei TG, c'è il signore che non fa parlare nessuno, i titoli dei telegiornali, altro che il sottoscritto. TG5. Il colosso immobiliare Dubai World alle prese con un debito da 59 miliardi di dollari, chiede una moratoria di 6 mesi, crollano le borse di tutto il mondo, Milano cede il 3,6%. Influenza A, il peggio sembra essere passato, contagi in netta diminuzione, il picco è stato raggiunto la settimana scorsa. Rafforzata la scorta al presidente del Senato Schifani dopo la lettera anonima con minacce di morte anche alla famiglia, solidarietà del mondo politico. Svolta nel delitto delle mani mozzate, fermato un imbianchino vicino alla vittima, tradito dalle impronte delle scarpe. Alla vigilia della ripresa del processo per la morte di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito scrive al TG5, vogliono condannare all'ergastolo un innocente. Telefonini, l'Italia si adegua all'Europa, entro gennaio tetto di 13,2 centesimi agli sms e tariffe a secondi per chi lo richiede. 3 inediti, cavalli di battaglia e alcuni gioielli rari da De Andrea Battisti e Trax 2, il nuovo sorprendente CD di Vasco Rossi. TG1. La crisi finanziaria del Dubai fa tremare tutte le borse europee che cedono oltre il 3%, male il settore bancario. Berlusconi e PDL, alcuni magistrati vogliono far cadere il governo, partito decide a maggioranza, chi non condivide è fuori. Finanziaria Tremonti, deficit solo per garantire cassa integrazione da scudo fiscale 4 miliardi, opposizioni critiche. Giallo delle mani mozzate, svolta a Varese nelle indagini su omicidio anziana, fermato un artigiano che abitava nella zona. Caso Cucchi al TG1, la cella d'ospedale dove è morto 6 giorni dopo l'arresto, pensava al cane, chiedeva cioccolata. Dromedari assetati all'assalto delle cittadine del nord dell'Australia, il governo manda elicotteri con i cecchini. Spettacolo tutto nuovo per Fiorello che questa sera debutta in teatro a Milano con il suo tecnologico Varietà. Siamo qui 800 24 00 24. Alberto, allora, prego. Eccomi, la ringrazio innanzitutto. Allora, sinteticamente, credo che il problema sollevato dalla Mannoia sia sotto gli occhi di tutti. Stiamo vivendo un periodo, e non lo attribuisco né a una parte né all'altra politica, lo dico prima per non essere frainteso, ma generalmente l'umanità, fra virgolette, sta vivendo un periodo, diciamo, buio dal punto di vista dei valori. Periodo buio, prego? Periodo buio dal punto di vista dei valori, l'umanità. Proprio di sì. L'umanità. Sì, certo. Credo che, non so, ma sia sotto gli occhi di tutti che in questo periodo le cose che contano sono i soldi, il potere, il sesso, è quotidiano tutto questo. Non vorrei essere tacciato di essere bacchettone, tutt'altro, mi creda, però bisogna anche fare, voglio dire, un'analisi che sia oggettiva e non troppo di parte. E a proposito, guardi, però Alberto, mi scusi, guardi che la Mannoia ce l'ha con Berlusconi, punto e basta, non è che solleva problemi mondiali, cioè. Ma l'argomento specifico solleva la Mannoia è riferito alla dignità delle donne. Sì, ma è riferito a Berlusconi, abbia pazienza Alberto, adesso non facciamo gli ipocriti. Voglia far passare per l'ingenuo, capisce al di là delle righe. Vabbè, non è e allora non è così. Creda, allora si creda. Riferisce a. No, è oggettivo che in questo periodo sì. La donna, il corpo della donna, sì. È oggetto di mercato, diciamocelo, su, o lo vogliamo negare? Ma sì, credo che sia evidente, basta sfogliare un giornale, basta guardare una trasmissione televisiva e capisce che quelli sono i valori, no? Allora, se lo dice non lei. Sento di condannare. La Mannoia che ha preso una posizione in questo senso, fermo restando che posizioni opposte rimangono comunque legittime. L'importante è sì. Che non si arroghino il diritto di essere la verità. E chi? Nessuno si arroga il diritto di essere la verità. E lei come pone le cose, guardi, spesso da guardi. Questa, le do un consiglio. Ti riascolti ogni tanto. Alberto, io mi riascolto sempre, il problema è un altro. Io mi riascolto sempre, il problema è un altro, che lei scambia il. Un qualcosa che ogni tanto viene preso in maniera ironica, sarcastica, corrosiva, con l'arroganza che non c'entra assolutamente nulla. No, io non la prendo in giro, sto dicendo quello che penso, abbia pazienza. Ma allora, ci sono altre trasmissioni, ed è vero, Ballarò piuttosto che Anno Zero, piuttosto che Il Tempo fa quello che vuole, dove però il contraddittorio c'è. Perché non c'è mai soltanto una perché parte. La Vespa non c'è contraddittorio. La Vespa, mi scusi. C'è Berlusconi da solo, senza contraddittorio. Ma di che sta parlando, Alberto? Come? Vespa, ma ogni tanto fare? Ci sono i leader della sinistra da soli. Ma ci sono anche i leader della sinistra da soli. Ci sono anche i leader della sinistra da soli da Vespa. Non è questo il punto che riguarda Vespa. Non è il fatto. Lo spazio che viene dato e diciamo l'indulgenza. Vespa, Vespa è attentissima a queste cose. Guardi, sotto gli occhi al minutaggio è attentissimo. Per cui non è questo. Di spazio dato all'uno ma agli altri. Minutaggio, scusi, sei da solo. Minutaggio a chi? No, se ma soltanto Berlusconi. Ma chi l'ha detto che c'è solo Berlusconi? Quando c'è. Ma hai fatto interventi quando da solo monologhi certo, da Vespa? Assolutamente. Assolutamente li ha fatti, ma la settimana, allora, la settimana dopo c'era Veltroni, c'era Franceschini. Alberto, la settimana dopo c'era anche Veltroni, Franceschini, l'ha capito o no? D'accordo. Come d'accordo? È così? Allora di che stiamo parlando? Ma non è questo il punto. Ha detto bene con la signora che è intervenuta un po' di tempo fa, mezz'ora fa più o meno, casualmente anche lei di Genova, mi fa piacere, bene. Che ha rilevato in lei una deriva. Una deriva. Ma io la deriva. Testuali parole ha detto. No? Se vuoi negare anche questo, lo neghi. Però testuali parole. Alberto, che condivido in pieno. Benissimo. Non Alberto, so lei ha detto una cosa talmente priva di qualsiasi senso, che è quella che solo Berlusconi fa monologhi a porta, che insomma si contraddice da solo. Ha capito qual è il punto? No, non ho detto questo. Come no? Che l'atteggiamento di Vespa nei confronti di Berlusconi. Sì. No, lei non ha detto questo. Lei non ha detto allora questo. Lo dico meglio. Ecco, vuole, no, lo dico no, meglio. Lo dica, allora lo si corregga. Si corregga. Però, non mi correggo perché quello che penso. No, lei ha detto un'altra cosa. Lei ha detto. Berlusconi fa dei monologhi da Vespa. Io gli ho detto, guardi, che non c'è solo Berlusconi a fare dei monologhi da Vespa. Allora, non c'è solo. Se lei la mette sul. Ma mai fatte delle domande. E va bene, a parte che non è vero perché. È innegabile. A parte che non è vero. Alberto, ma lei ascolta o no? Una persona media ma lei, ma lei ascolta o no? Ma lei ascolta o no quando uno le parla? Lei, certo che ascolta. E allora, ascolti un attimo, quando c'è Berlusconi, un leader politico della sinistra, della destra, da solo, da Vespa, ci sono anche dei giornalisti, a lei possono non piacere le domande che fanno, ma le domande vengono fatte, possono essere domande... Scusi, ha mica mai visto che giornalisti ci sono? Ah no, perché il direttore del Corriere della Sera è uno stronzo, mi scusi? No, questo l'ha detto lei. No, e allora non ho capito, lei ha detto... Al Presidente della Camera. Che vuole fare? Mi adeguo anche, io al Presidente della Camera. Non capisco, ma perché se uno la pensa diversamente diventa uno stronzo. No, cosa vuol dire? Ho capito, ho detto, siccome c'è anche spesso il direttore del Corriere della Sera, il direttore del Sole 24 sempre, Ore... Non sempre. Comunque, guardi, la formula che utilizza Vespa può essere criticata, è sempre la stessa, sia che ci sia Berlusconi, che ci sia Veltroni, ci sia Franceschini, certo, eccetera. Ci sono dei giornalisti, Vespa, dei giornalisti, allora, direttori o meno, che fanno delle domande. Gli altri presidenti del Consiglio che andavano a firmare il contratto con gli elettori. Ma quello è un altro discorso, quello è un'altra cosa. Qualunque presidente del Consiglio l'ha sempre fatto. Ma cosa sta dicendo? Ma io non ho detto questo. Ma cosa sta dicendo? Va bene, Alberto. Un po' di obiettività, per favore. Va bene, Alberto. Tanto... Guardi, non ci intendiamo. Appunto, quindi... non ci intendiamo. Però è stato piacevole, no? Sì, certamente, molto piacevole. Grazie, molto piacevole. Grazie, buona serata. Grazie a lei, arrivederci. Allora, l'Unità ha reclutato 30 poeti italiani, 30 poeti contro la minaccia incostituzionale per la resistenza della memoria repubblicana. Calpestare l'oblio è la raccolta di poesie, che sono evidentemente delle poesie che ricordano la resistenza, unite ad altre poesie che hanno un riferimento diretto a Berlusconi. Anche la poesia contro Berlusconi. Sentite Giuliano Scabia, credo che sia questa la pronuncia corretta, uno dei poeti che si sono esercitati su Berlusconi. La poesia ha come titolo Golpe sottile. Si aggira nelle menti, nei media, un golpe sottile, un assopimento spettacolare indotto da paura e dissolversi delle visioni. L'ora è venuta di lasciare il Novecento con le sue catastrofi e bellezze, ma dicendo siamo orgogliosi di ciò che fu fatto per il bene, non lo rinneghiamo. Voi, col vostro gran porcone e le sue madonne velinose, andate pure alle glorie delle falsate storie. Dignità e valore è libertà, durezza e verità, amore delle città, non tresca, non truffa, non menzogna. Ciò che bisogna adesso è sveglia Italia, scrollati dal fango che t'ammalia. Ci dovrebbe essere il traffico, però un attimo di attesa anche ai cari amici che ci raccontano quello che succede sulle strade italiane, perché ci vuole un attimo di pausa dopo aver letto questa poesia contro il Gran Porcone. Sì, il Gran Porcone, proprio come diceva il mitico Don Giorgio, magari Giuliano Scabia avrà preso proprio da Don Giorgio. Domenico da Foggia, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. No, intervengo anch'io sulla questione sollevata, diciamo così, sulle affermazioni fatte da Fiorella Mannoia. Ritengo che in quelle dichiarazioni ci sia anche un fondo di verità, però ecco, non voglio qui dare la colpa a Berlusconi di quello che accade normalmente. Secondo me questo è un processo storico che ha un'origine più antica, più vecchia, diciamo che nasce dalla crisi della politica degli anni 70, si afferma con l'esodismo reaganiano, non so se lei ricorda De Agostino, quegli anni lì, e poi va avanti con la commercializzazione, diciamo così, della televisione, cioè con l'affermazione della televisione commerciale, eccetera. Sì, però mi scusi, parallelamente, sì, Domenico, a questo, sì, che è evidente, no? C'è un uso del nudo femminile in televisione sempre più frequente. Ma non soltanto in televisione, ma in generale. Vabbè, in generale, d'accordo. Parallelamente a questo, sì, insomma, c'è un altro tipo di tipologia di donna che è avanzata, certo, nella società, che occupa posti di potere, problema, magari non, esatto, come in altre nazioni. Per cui di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Di un problema inesistente, secondo me. Il problema è qui non voler ammettere che cosa? La donna sia considerata ancora, tra virgolette, un soggetto debole nella società. Se uno non accetta questo tipo di affermazione, è chiaro che poi giunge a tutta una serie di conseguenze. Sì, però Domenico, il problema non è tanto, possiamo fare possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, diciamo, a filosofici, alla Gad Lerner su questo. Se uno non considera... No, ma non è questione di fare discorsi filosofici alla Gad Lerner. No, ma il problema è uno solo, si attribuisce questa sorta di deriva nell'immagine femminile a Berlusconi, alla televisione di Berlusconi, non so se è questo il punto, lasciamo perdere queste discussioni. Il punto dove si vuole andare è questo. Ha sdoganato certi comportamenti, certi atteggiamenti che prima non sarebbero stati accettati. E mi riferisco soprattutto a certi incarichi, ma non voglio stare qui a personalizzare le questioni. No, lei personalizza le questioni. No, voglio dire. Domenico, però un attimo solo, resti con me. Siamo qui 20:20, 800 24 00 24. Domenico, per concludere, prego. No, per concludere dicevo che secondo me quello che manca nel nostro paese, ma è un fatto più generale, è proprio la funzione pedagogica che avevano alcune delle masse, che avevano alcune istituzioni, come anche i partiti. Bah. Per cui i poveri di spirito di oggi, diciamo così, dove se la formano la loro coscienza civica? La loro coscienza civile. Prima c'era un partito che fungeva anche da esempio. E adesso invece la televisione. E ora, sì, chi non legge il giornale, eccetera, forma la propria... E dunque la conseguenza, qual è la conclusione? La visione della televisione, eccetera. E dunque? Siccome la televisione è molto commerciale, e quindi alla fine si arriva ad accettare certi valori. Quindi io penso così. Va bene, Domenico. La ringrazio. Prego. 800 24 00 24. Carlino ci chiama da Bergamo. Buonasera, signor Carlino. Illuminante Crociani, buonasera. Sono Carlo, non Carlino, vabbè, poco male. Senta, io volevo intervenire in merito alla Mannoia, no? Perché mi è venuto da sorridere. Uno, perché adesso sta per uscire un LP e forse questo è un sistema per farsi un po' di pubblicità. E poi un'altra cosa è che non so se si ricorda quella canzone meravigliosa della Mannoia che dice quello che le donne non dicono. Non so se se la ricorda. Sì, come no, certo. Ecco, appunto, c'è un pezzo in cui la Mannoia dice e i complimenti dei Playboy non li sentiamo più perché forse perché non c'è chi ce li fa più. Allora, questa mi sembra un po' una contraddizione, cioè nel senso che non penso che il Playboy fa il fischio alla donna che passa per strada perché la trova intelligente. Penso che nelle curve armoniche delle donne ci sia qualche cosa che la attira profondamente. Io sono innamorato di ciò che è psicologia a livello amatoriale, ma sul discorso uomo e donna c'è sempre stato e sempre scritto, stato detto e scritto che l'uomo si innamora con gli occhi e la donna con le orecchie. Quindi adesso cerchiamo un po' di tornare anche nella natura delle cose, no? Non andiamo oltre. Vabbè, carino, adesso al di là di queste ultime cose che ha detto, lei dice la Mannoia si vuole fare un po' di pubblicità, ma insomma, è normale fare le interviste per l'uscita di un disco, per cui non è certe cose in realtà la Mannoia le dice a prescindere dall'uscita di un disco. E la ringrazio. Abbiamo con noi uno dei poeti, dei 30 poeti italiani che hanno scritto contro la minaccia incostituzionale per la resistenza della memoria repubblicana. Si chiama Gianni D'Elia, lo ringrazio molto. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Senta, la sua poesia è stata scritta appositamente per questo, per calpestare l'oblio? No. No, lei la... Era già in corso d'opera. Era già pronta, diciamo. No, in corso d'opera, è un poemetto contro Berlusconi proprio. Ah, proprio così? Sì. Cosa l'ha ispirata? È una parte. Ma io innanzitutto, siccome ho ascoltato la trasmissione da un'ora che sento, la ringrazio anche prima molto. Che ci fosse lei, c'era questo discorso sulla Mannoia che poi è continuato, ma... Ma io c'ero sempre, veramente. Comunque, direi che è un po' contesto, questo contesto in cui adesso sono inserito, perché quale contesto, anche il modo scusa. In cui è stato poi letto Scabbia non mi pare corretto. In che senso non le pare corretto? Mi pare che questa trasmissione trasudi di ipocrisia e di volgarità proprio. Ah, oh, cioè, siamo qui. Un'ipocrisia maschilista che lei incarna in pieno, una volgarità di regime proprio. Ah, la grande. Quindi io mi chiedo perché ci avete chiamato, per una trappola, questo probabilmente. Sì. E infatti siamo qui, siamo qui con la... A lei chi lo paga? Chi mi paga? Berlusconi, forse. Certo, come no, che non lo sa lei. Questo, è la prima cosa che uno pensa è che la come zanzara, no? Più che una zanzara, è una cornacchia del potere. Certo, questo. D'Elia, ma lei non l'ha capito ancora? L'ha capito? Perché lei dice che Vespa è ecumenico, senti. Fiorella Mannoia è vittimista, senti. Certo. Calpestare l'oblio, ma voi calpestate la verità. Noi io sempre. Le dico quello che diceva Pasolini. Ogni giorno, ogni le giorno. Le dico che non solo la televisione, ma anche la radio è la negazione devastante della realtà. Ma noi siamo la negazione. Questo state facendo. Noi siamo... L'Italia di Berlusconi è semplicemente questo. Ma noi siamo pagati da Berlusconi. La negazione della realtà e della verità. Ma noi siamo pagati da Berlusconi. Lei non lo sa. Non lo so, può darsi. No, ma io lo dico, siamo pagati. Io questo non lo so, però è chiaro che gli interessi, perché quando lei nega la realtà, sì, io nego la realtà. Addirittura che la televisione negli ultimi 30 anni, soprattutto da quando è arrivata la televisione privata, ha azzerato pazzescamente qualsiasi idea, non dico di dignità delle persone, non ci sono solo le donne, ma siamo tutti. Cioè, e poi non dico solo la televisione. Cioè, mi scusi un attimo, Delia, se lei mi lascia, se la sua idea di tolleranza mi lascia un 30 secondi per replicare, lei ha appena detto una cosa, cioè la televisione da 30 anni, la televisione ha azzerato qualsiasi forma di dignità. Cioè, solamente a sentire una frase del genere, vabbè, insomma, rispondo, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quello, se lei ha letto qualcosina, se sa quello che Pasolini scriveva. Ho letto molto poco, altri. Nella mia vita ho letto molto anche poco. Capire quello che sta succedendo in questo paese. Nella... Grazie anche a voi. Purtroppo, che state nel potere dei media. Noi siamo nel potere dei media. Ma non poeti. Io le rispondo con Mandelstam, che era un poeta che è stato fatto fuori da Stalin. Sì. Le rispondo che oggi non è la differenza di classe che conta e neanche diciamo la differenza appunto di estrazione, ma è essere amici o nemici della parola. Lei stasera è nemico della parola. Io sono, io perché leggo molto poco. La parola in una maniera vergognosa. Io leggo molto poco per nella mia vita. Le persone, quindi io la mia poesia come ma, non ve la leggo. Ma io leggo molto poco nella mia vita. Sul sito e la guarda. Ma io nella mia vita leggo molto poco, Delia, sono abbastanza ignorante, capito? È pagato anche ma da non Berlusconi. È quello che il problema è la bassa statura proprio di tutto oggi. È una cosa su quello sono 1,80, perché non si può discutere. Capito? Se lei, io ho sentito anche con gli ascoltatori come fa quella signora che voleva dire proprio che invece le donne sono umiliate. Lei, no, però me lo spieghi lei, Delia, me lo spieghi. È un problema inesistente. Me lo spieghi lei perché sarebbero umiliate le donne? Ma la donna lei ha detto che è un problema inesistente. E lo ribadisco. Quello della volgarità, invece. Ma che c'entra? Non è che non esistono. Non è che non esistono. Non è che non esiste la volgarità. Certo che esiste la volgarità, esiste. Delia. Certo che esiste la volgarità, non c'è dubbio. Nelle nostre parole. Anche se, anche se in cui ci rivolgiamo in Italia ormai tra persone. Come lei sa, Delia, sulla volgarità c'è chi pensa che una cosa sia volgare, c'è chi pensa che una cosa sia meno volgare, ci sono delle opinioni anche su questo. Lei conosce sì le opinioni differenti, se lei ha presente. Sì, io le dico, siccome lei mi ha dato dell'intollerante, io le dico che io non sono intollerante. Ma io non ho dato dell'intollerante, io non le ho dato dell'intollerante. No, io ho detto... Lei ha detto, lei non sa cos'è la tolleranza. Io, no, non ho detto se questo. Sa cos'è la tolleranza. Io le dico questo. Io è una domanda, lo sa, la conosce la tolleranza. Io sono intransigente, questa è la differenza. È una differenza che ci ha insegnato Pasolini. Eh beh, certo, l'intransigenza anche, è una brutta bestia. Lei ha letto i versi di Roberto Roversi? Non leggo io. Calpestare l'oblio, c'ero anch'io là a Dresda dove c'è stata la guerra. Ma non leggo, ora, Delia. Io non leggo. Lei parla su di me. No, non leggo. Io non le dico che leggo poco, dunque lei mi dice ha letto i versi. Io leggo molto poco, per cui è difficile che possa aver letto i versi che lei sta citando. Ma allora perché ci avete telefonato? Io l'ho chiamata per farci spiegare la sua poesia. Se ce la vuole spiegare la sua poesia, ce la spiega. Se non le va più perché ha ascoltato di spiegarcela, non ce la spiega, chi se ne frega. La mia poesia è una risposta al discorso che è stato fatto il 25 aprile quando si è detto da parte di Berlusconi che voleva cambiare il nome della Liberazione con libertà. Io, cioè, voglio dire, arriva lui, buon ultimo, sono morte migliaia di persone per darci la libertà e si è chiamata Liberazione. E sono completamente contrario, anche perché viene da qualcuno che io chiamo sciagurata sineddoche d'Italia, cioè che è la parte per il tutto del peggiore. Del peggiore carattere affarista, no? Affarista, sì, Smisuralia. Smisuralia cos'è Smisuralia? A me che sono un po' ignorante, me lo spiega Smisuralia che significa? Vuol dire che è un modo astrattivo per dire che è il potere che incarna la smisuratezza. Sa che Dante dice nel 16° canto proprio la gente nuova ha i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata. Cioè la causa di oggi, la causa del casino che c'è in Italia oggi, sa qual è? Qual è? È l'orgoglio e la dismisura, perché quando uno c'ha il potere economico e prende anche quello politico e non gli basta, vuole tutto, ha avuto il potere sociale, quello economico, quello pubblicitario, quello politico, ma vogliamo svegliarci in Italia? Non è possibile. Allora, Delia, non è possibile la prima, dare a una persona il potere su di bene, noi. Bene, bene, bene. La prima, e chi non si rende conto di questo? E chi non si rende? Anni che non è Rolling Stone, sì. Perché la pietra che rotola, rotola, questa è una pietra sopra di noi, questa non rotola, è lì da 20 anni e ci sa quanto ci vuole stare ancora. Allora, noi ci ribelliamo, e statelo a sentire, noi poeti siamo inermi e lo faremo con la parola. Io sono contrario a qualsiasi tipo di violenza, ma non a quella verbale, come ha insegnato Pasolini, perché la violenza verbale è il diritto della libertà di ribellarsi all'infamia che c'è oggi. E ci fate stare male, tremare la voce, perché io ho sentito la sua trasmissione, ma mi ha fatto stare così male questo modo aggressivo di continuare una colonna sonora dell'Italia che non mi piace. Non mi piace per niente questa colonna sonora, non dico che la mia è giusta, io dico solo che noi non ne possiamo più di essere umiliati così nelle parole. L'Italia era quella di Dante, e adesso è quella di Berlusconi. Mi dica se c'è un parallelo possibile. Non esiste. No, certo. Tra l'Italia di Dante e quella di Berlusconi, certo non c'è. La degradazione antropologica a cui siamo arrivati è così profonda, riguarda tutti noi. Non è solo la destra e la sinistra, siamo arrivati a un punto in cui, infatti in televisione, lei me l'ha mai visto un poeta? A qualcuno di noi da anni che scriviamo, Maurizio Cucchi, tante altre, ma tu ci sarà un premiuzzo, magari una volta c'è un premio, si vede 5 minuti, gli danno il premio e va via. Non c'è la parola dei poeti, l'abbiamo chiamata per farci sentire le parole dei poeti. Lei non ce la vuole dire, sta facendo da 10 minuti una sorta di comizio, ma va benissimo. 20:31, noi abbiamo la borsa, sa, la borsa è qualcosa che ogni tanto gli italiani vedono, lei farà schifo, i soldi, il potere, eccetera, però la borsa ogni tanto qualcuno si informa sugli andamenti dei titoli, più o meno, si perdono soldi, si guadagnano. Sa come funzionano queste cose, no? Tutti un po' più calmi, spero, no? Perché non è successo niente. Pronto, mi togliete la linea, per favore? Vuole essere staccato, come si dice? Gliela togliamo la linea? Immagino di sì, no? No, Delia, se vuole discutiamo un altro po', se non le va chiudiamo, non c'è problema. Ah no, io pensavo che fosse chiusa. Ma no, ma noi non togliamo la parola a nessuno, siamo molto tolleranti, molto aperti al controllo di quello che lei può pensare. Berlusconi non ci paga, ma anche se ci pagasse non sarebbe un problema. Non è che essere pagati da Berlusconi sia qualcosa di disdicevole. Almeno io penso così. Ma io penso che non abbiamo più niente da dirci. Forse ha ragione. Penso lei. Anche perché mi sa che lei, con questo modo di rigirarla, lei dice che io faccio i comizi, ma lei li fa per quanto dura la trasmissione. Ma no, io lascio parlare un sacco di gente, poi dico la mia ogni tanto, dico delle stupidaggini, può succedere, ma insomma non siamo esseri infallibili, no? Come dire, o no? Non mi pare una situazione italiana molto tranquilla in dice. Cui si riesca a stare neanche con un dialogo un minimo, no? Perché beh, insomma, lei non ci ha nemmeno provato, però devo dire la verità, Delia. Io ho provato. No, lei non ha provato. Lei ha iniziato dicendo che subito la prima cosa che ha detto: mi avete invitato per farmi una trappola. Dopo aver sentito un'ora, ma lei ha ascoltato la trasmissione, si nega la realtà. No, non però, vedo perché si Delia, la realtà poesia. La realtà è la sua realtà, abbia pazienza su questo, però mettiamo le cose in chiaro. La realtà è come la vede lei, io la vedi in un altro modo, e lei su questo sarebbe la verità. No, ma lei, la realtà è quella in cui viviamo, ma lei nega la volgarità, ma no, dice che la Mannoia si è inventato tutto. No, ma sto dicendo che il ragionamento della che sentiamo fesserie, scusate, è ma un'ora lei, che sentiamo secondo fesserie, lei secondo lei per lo più secondo, parte sua, secondo lei sono fesserie, secondo altri sì, non sono fesserie. Sì, secondo me, ma molto, ma poi anche furbe. Sì. Cioè un modo di parlare così, anche di togliere la parola a quelli che non sono d'accordo con lei, perché qualcuno ha chiamato e voleva dire qualcosa. Senta, Delia, il 90% delle persone che chiamano non sono d'accordo con me. La trasmissione è costruita su questo. Se lei lo capisce, bene, se non lo capisci non ci posso fare niente, però abbia pazienza. Se lei pensa che noi togliamo la parola e siamo lì per non fare parlare la gente, è esattamente il contrario di questa trasmissione. Mi chieda qualcosa se vuole parlare. Benissimo. Con calma. Mi chieda qualcosa, io non ho più niente da dire, perché volevo solo dire che questi sì. amici o poeti riuniti in questa cosa... veramente hanno il sentimento antifascista, il sentimento della Resistenza. Bene. Il cuore dei padri che vogliamo onorare, perché l'unica cosa pulita dell'Italia è stata la Resistenza. E Berlusconi che c'entra, mi scusi? Berlusconi nega qualsiasi cosa che riguarda, tant'è vero che sono decenni che non andava mai a celebrare la Resistenza, o no? Sì, non è andato. Mai. Non è andato. È andato dicendo che tocca cambiare il nome. Mm. Allora il nome non lo cambieremo mai, perché la Liberazione non la cambiamo per la Berlusconi, cioè per Berlusconi o per la Berlusconeide, cioè non ci interessa cambiare perché, il nome. Perché queste cose non me l'ha detta all'inizio? Io volevo parlare della sua poesia, perché non ha voluto parlare della poesia? Perché lei era arrabbiato per aver ascoltato un'ora di trasmissione. Beh, se ne faccio una ragione, che esistono delle trasmissioni che magari hanno una sensibilità da parte del conduttore diversa dalla sua, mi pare una cosa normale questa qua. Perché lei si dice così tollerante, la Costituzione, eccetera, e poi quando sente qualcosa su cui non è d'accordo si imbestialisce, questo non lo capisco, abbia pazienza. No, non mi imbestialisce. Beh, quello è successo. Cioè, io posso avere anche una sensibilità molto diversa dalla sua, ma dov'è il punto? Qual è il problema? Discute con me, non è che l'hanno. Se me fa rispondere, il punto è che entrare con un testo come il mio in un contesto come il suo è impossibile. Ma qui non c'è nessun contesto, il contesto lo sta inventando. Io insegno comunicazione, c'è il contesto. È il fatto che le sue parole prima delle mie che dovrebbero incapsulare poi le mie. Ma quando mai? Io le potrei fare lezione di quello che è la comunicazione. Mi faccia lezione e non la sto prendendo in giro. Se io volessi prendere in giro, lei mi stopperebbe subito, no? Lei mi direbbe: mi sta prendendo in giro. Lei nemmeno ci prova a mettersi, cioè non ci ha provato nemmeno a confrontarsi all'inizio con me. Ha ascoltato un'ora di trasmissione, si è imbestialito ed è arrivato al microfono imbestialito. Va benissimo, perché io rispetto anche l'imbelvimento, come ci disse un giorno un ascoltatore da Pisa, Giovanni da Pisa. Sono imbelvito con lei, Cruciani. Dopodiché, con l'ascoltatore da Pisa, un tale Giovanni, che saluto perché ci sta sicuramente ascoltando, abbiamo parlato amabilmente di tante cose. Non è d'accordo con me quasi su tutto, ma lei è arrivata in trasmissione insultando questa trasmissione. No, io non ho insultato. Come no? A Valeria, guardi, si riascolti lei. Lei è professore di non so che cosa, di comunicazione, di quello che è. Io ho sentito lei sta dicendo: non voglio. Ho capito. Lei ha detto, ma se io ho idee diverse dalle sue, quello che avete detto, d'accordo, sono Delia, arrivato dicendomi e chiedendomi: ma perché ci hanno chiamato per parlare? Ma Delia, mi scusi. Se siete uomini di prosa così veramente allucinanti. Ecco, appunto. Uomini di prosa che non capiscono e non capiranno mai niente della poesia. Ma lo vede? Della gente, della poesia, della vita. Della vita, infatti, noi non capiamo niente della vita. Questa è la sua tolleranza. La prosa del potere. Questa è la sua tolleranza. Questa è la sua tolleranza. Che vi fa vibrare tutti. Sì, il potere, questa è la sua tolleranza. Questa è la sua tolleranza. Non c'entra la tolleranza. Ah, non c'entra niente. E il fatto è quello. Certo. Cioè, chi ha una testa di prosa assoluta non arriverà mai a un minimo a intendere la poesia. Della Resistenza, la poesia della memoria. Va bene, poesia, io sulla testa di prosa ci posso anche ragionare. Infatti noi non ci rivolgiamo più neppure alle radio, alle televisioni, facciamo un lavoro fuori, fuori, come faceva il Samizdat in Russia, perché siamo quasi a quel livello ormai in Italia. C'è un popolo vasto che sente, credo, la poesia. Perché se no non si capisce neanche, perché anche insomma vari libri di poesia insomma li vendiamo anche. Cioè, posso citare il suo libro? Gira nei giornali, gira in altri posti, però io ho questa impressione che il mondo della comunicazione sia proprio qualcosa di devastato. Cioè, dovremmo mettere le mani. Pasolini diceva che bisognava chiudere la scuola dell'obbligo e la televisione per 2 anni per poter forse ricominciare da capo. L'educazione degli italiani. Sa chi voleva distruggere. Queste sono parole che le dico, che possiamo discutere di. Certo, questo. Sa chi voleva che sia aggressivo. No, altro. Beh, adesso lei non è aggressivo, prima è stato aggressivo. Sa chi voleva distruggere per poi ricostruire? Sa chi voleva distruggere per poi ricostruire nella storia, no? Lei che pare intendersene di eventi sospendere. Storici. Distruggere e ricostruire. Beh, sospendere io un non po' di tabula rasa, fare tabula rasa, no? Quella proposta paradossale, che però era chiaro, non che 2 anni si stava senza fare niente, si cercava di ricostruire poi un tessuto, qualcosa di ricostruire vero. Perché c'è qualcosa da distruggere prima, quando si vuole ricostruire si dice. Ma è già distrutto. È già tutto, siamo a zero. Siamo a zero dei sentimenti, delle idee, di qualsiasi cosa. perché questa è anche la dimostrazione questa sera, perché noi chiaramente non prendiamo mai un'iniziativa, una cosa. Questa cosa è stata anche perché c'è un silenzio così, così grande da parte dei, io direi anche dei poeti o degli scrittori. Su che cosa? Anche sulla situazione? Siamo stati un po' costretti. Ma su che cosa? Sulla situazione, silenzio sulla situazione dell'Italia? Sulla situazione vera dell'Italia, certo, perché la voce è quella del padrone che si sente solo. Boh. Per lo più si sente una voce sola. Dice, Una grande voce sola e qualche voce sparuta che risponde e cerca di dire che le cose non stanno così, però è dura. Non è che è quello anche di scriverlo in versi o di dire che questa situazione, insomma, non è più tollerabile, soprattutto quella di volere distruggere la Costituzione, il diritto uguale per tutti, la resistenza come memoria, la cultura, e mettere al posto della cultura Villa Certosa. Cos'è? Questa è l'Italia? Mettiamo al posto della cultura tutto questo bell'ambaradan di gente che traffica con la droga, che va in giro con le puttane, che fa quello che fa, e poi diciamo, ma in fondo questo è Rolling Stone, questo è, siamo tutti liberi, lui è molto più democratico di altri perché almeno lo fa, lo dice, lo fa. Cioè, io penso che siamo arrivati a un punto in Italia in cui nel mondo ci ridono dietro, perché io ho tanti amici in varie parti del mondo e quando gli parlo dell'Italia mi devo difendere, perché loro pensano che Berlusconi rappresenti tutti gli italiani, ma noi non siamo rappresentati. Anche lei però, anche lei è un uomo di prosa, però, da quello che sento. Ma io sono costretto a essere un uomo di prosa, sono costretto a occuparmi dell'impoetico, perché a me piacerebbe tanto scrivere versi sul mare che amo e andarmene in giro e pensare alle cose belle. Purtroppo siamo costretti a pensare alla mafia, alle cose brutte. Però vede, Delia, al potere quando, che abbiamo di quando, fronte tutti i minuti. Certo, quando lei è, come dire, quando si tranquillizza un attimo, perché ripeto, ma si io può, sono tranquillo. No, adesso appunto, quando lei parla tranquillamente ci si può confrontare. Sta parlando con me. No, io lei adesso non ma ci cosa non, fa lo non ci non ci nazista? Non ci prendiamo non ci no, per carità. Mi fa, no. Non ci prendiamo in giro. Non le accetto. No, mettiamo che giù, psichiatra. Salutiamoci e forse ci rivedremo tra un secolo o due. No, ecco. speriamo prima. Quando le cose cambieranno in questo paese. Filippo da Verona, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. La ringrazio per avermi richiamato e vi garantisco non sono stato filtrato, quindi... la mia considerazione è sul ruolo, diciamo... sulla Mannoia, diciamo, su quello che ha detto la Mannoia, ed è questa la mia considerazione. Ho l'impressione che ci sia serpeggiante un sacco di invidia, le donne brutte che hanno invidia delle donne belle e vogliono andare in televisione anche se sono brutte, gli incapaci che hanno invidia dei capaci e delle persone di successo. Io sono convinto che tanto odio verso Berlusconi sia perché è una persona di successo. E ma non credo, questo non lo credo, né credo che ci sia l'invidia delle brutte nei confronti delle belle. Sì, c'è naturalmente, ma guardi, il discorso sulle belle in televisione è un discorso finto, un discorso inesistente. Vorrei riprendere le parole di Ricci, di Antonio Ricci, l'inventore di Striscia la Notizia, sulla questione della mercificazione del corpo delle donne e la sua polemica con Lerner. Domani le ritrovo e ve le leggo, perché erano secondo me perfette. Filippo, la ringrazio, mi scusi, ma devo andare un po' più veloce perché ho diversi ascoltatori dopo il comizio di Delia, per cui siamo qui. Francesca da Roma. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Buonasera. Allora, devo dire che questa sera dissento particolarmente su quello che lei dice, perché in effetti anche io intervengo sulla mercificazione del corpo della donna in televisione, e devo dire che tanto in televisione quanto sulla carta stampata io quegli esempi di donna che dice lei, che sta venendo fuori negli ultimi anni, più diversa, emancipata, inserita in un modo più civile nel contesto della società, non li vedo proprio. Non le vede, in televisione non le vede. Francesca, vediamo due televisioni. Vediamo due televisioni differenti, evidentemente. Vediamo programmi diversi. Vedo la televisione che possono vedere tutti gli italiani all'ora di cena tutti i giorni, perché poi per il resto prima studiamo, adesso lavoro. Ma io non parlo solamente della televisione, in generale nella società. Cioè... In generale nella società è così. Ma comunque in televisione passa anche... In televisione passa anche... Non è che passa solo quella col bel sedere o quella con... No, non passa solo quella, però ne passa il 90%. È il 10% che poi viene spazio, quello che dice lei, che io vorrei che fosse di più, vorrei che fosse il 90% di quella buona e il 10% di sederi e poppe. Il problema però non è soltanto per donne della mia età, perché io ho tutto lo spirito critico per guardarmi delle trasmissioni, come dire, col seno di fuori, perché sono adulta e allora? Le prendo con spirito critico. Il problema sono le ragazzine. Il problema sono le ragazzine, perché prendono a modello quello. Io non so se lei ce l'ha presente, però negli ultimi tempi c'è un fenomeno importante tra le ragazzine adolescenti che vanno a scuola, alle medie. Questi si vendono per banchi di scuola, perché vedono un modello che viene loro inculcato, che è questo. Vogliamo prenderlo in considerazione questo fatto, o parliamo solo fra adulti? Non siamo soltanto adulti che... Ho capito, Francesca, ho capito. Grazie. Devo andare a Ferrara, Enrico. Buonasera, volevo intervenire relativamente al processo breve. Io giustamente sentivo in questi giorni, insomma, sottolineare il fatto che la durata dei processi comunque è incivile, insomma, bisogna fare qualcosa per ridurre la durata dei processi. Poi mi sento il ministro Alfano che dice che questo decreto avrebbe effetto sull'1% dei... Sì. Dei processi, mi sembra un po' una contraddizione, insomma. Poi è passato al 9% in realtà. Ho capito, sì, però insomma ha scritto bene l'altro giorno Ferrarella sul Corriere della Sera che è impossibile in realtà fare un calcolo perché molti tribunali non sono informatizzati, i fascicoli non si riescono a contare bene. Francesco da Milano, andiamo veloci perché già siamo in ritardo di 10 secondi, dica Francesco. Senta, la prima cosa è questa, perché secondo me un conto è avere opinioni diverse, un conto è l'insulto. Se a questi ascoltatori la sua trasmissione fa così schifo, ma perché non ascoltano Radio Popolare? Lì di sicuro la verità c'è. Se davvero la sua trasmissione è un veicolo di terrore mediatico berlusconiano, che ascoltino un'altra trasmissione, secondo me. Beh, speriamo invece continuino ad ascoltarci anche quelli che non la pensano come il sottoscritto, anche se io la penso in maniera diversa su tanti argomenti e certamente non sono catalogabili in un modo o nell'altro. La ringrazio Francesco, mi dispiace per lei, per Corrado da Brescia, Raffaele dalla provincia di Torino, ma rimandiamo tutti i vostri interventi a domani 18:30. Ciao. La Zanzara.